Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Oggi sarebbe puntata da un giorno in procura di Ribéry e Benzema. Avete sentito nel giornale radio, sono in stato di fermo, rischiano arresto perché hanno fatto quello che hanno fatto con una ragazza minorenne, una storia abbastanza vecchia, però sarebbe puntata da un giorno in procura anche per Petacchi, che pure è sotto inchiesta, non a Parigi ma a Padova questa volta, per la solita storia di doping. Pare che in una perquisizione a casa sua sia stato trovato del perfluorocarburo, sostanza chimica sintetica usata in anestesia, e dell'albumina umana, solite porcherie. Petacchi ha detto, ovviamente, certo di dimostrare la mia estraneità ai fatti, vedremo come, quando e perché. Sarebbe anche puntata da Furbi del quartierino con Contador, che ha chiesto scusa, meglio tardi che mai, ma secondo me sta allargando la macchia sul suo vestito giallo, perché ieri ha fatto il furbo, appunto, Schleck giura catena, lui è partito. Oggi, poi subito dopo la corsa, ha detto: ma non mi sono accorto di niente, ma come? Come se fosse così possibile. Quindi ha fatto il Pinocchio, e oggi ha dimostrato di aver fatto il Pinocchio, perché ha detto: probabilmente ho sbagliato, ho fatto una cosa che non si deve fare, quindi lo sapeva benissimo Contador di aver fatto appunto il furbetto. Sarebbe puntata per parlare di tutto questo, magari lo facciamo poi insieme, 800 24 00 24. Ma prima vorrei partire da un altro discorso, perché in questi giorni si fa un gran straparlare di giovani, discorsi molto demagogici, abbastanza pericolosi, secondo me anche vagamente antipatici. I giovani italiani devono giocare, bisogna fargli spazio, bisogna proteggerli dall'invasione straniera anche nei vivai. Su tutto questo io, come sapete, come alcuni di voi ma almeno sapranno, non sono poi così d'accordo, perché nello sport professionistico i giovani italiani devono certamente giocare, ma devono meritarselo. Oggi ho chiamato il presidente di uno dei club più importanti nella storia dello sport italiano, non solo del basket. Non è mai stato un presidente banale, semmai il contrario. Claudio Sabatini, presidente della Virtus Bologna di basket. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, io leggevo anche ieri sulla stampa, ma già lo sapevo, questo articolo secondo cui lei dice: i giovani io li prendo, anche quelli bravi, vengono a Bologna, devono giocare, devono allenarsi, ma devono anche studiare, se no finiscono al terzo anello del Future Show. Assolutamente, questa è una mia visione, una mia riflessione da padre, perché ho tre figli, e da dirigente di impresa. Sono ormai 7 anni che sono nello sport, però mi ritengo ancora un neofita, non sono un uomo di sport. Vedo questa contraddizione importante, dove da una parte vogliamo formare dei giovani, sì, a livello tecnico-atletico, e concordo con lei che i giovani italiani devono giocare se lo meritano, perché poi dopo dobbiamo competere con le nazionali, sì, e se non sono abituati a competere con giovani di altre nazionalità, poi dopo facciamo le figure che stiamo facendo. Ma dall'altra parte ritengo che, mentre li formiamo a livello agonistico, lo sport non li forma per carriera. Che certo, un giovane, un professionista, anche se molto in gamba, si ha la fortuna di non avere infortuni importanti a 33-34 anni, che è un'età che ancora uno è molto giovane, rischia di essere un pesce fuor d'acqua nella società, nella vita di tutti i giorni. Non si può mettere nel contratto questo obbligo di studio, però a parole mi sembra sia chiaro. Con Martinoni, che pure è un giovane di livello che avete preso quest'anno, con Moraschini, che è un altro giovane di livello, dovete studiare, se no finite in tribuna, e vale per tutti. Assolutamente, lo dico da buon padre di famiglia, perché comunque in questo momento noi abbiamo un vivaio molto importante, da 7 anni investiamo, sì, nel settore giovanile, non a caso siamo i campioni nazionali under 19, bravissimi ragazzi, non a caso nel 2005 lanciamo questa iniziativa che migliora scuola prima in campo, mm-hmm, ed è anche la riprova che altrettanto che Matteo Negri, che andò in campo con l'Olimpia Milano nel 2005, quest'anno è stato campione nazionale, sì, quindi il fatto che uno deve essere forte in campo, deve essere per forza ignorante, credo che sia un grandissimo errore. Io dico che di giocatori ignoranti ne abbiamo tanti e l'ignoranza porta solo dei danni. Presidente, io sono contrario al protezionismo e l'ho sempre detto, è una battaglia ormai da molti anni in atto, nel basket lo so benissimo, come nel calcio riducono il numero di extracomunitari. Credo che per far crescere i giocatori italiani il protezionismo non serva poi a molto. Io credo che si debbano invece garantire loro strutture e i migliori tecnici possibili, non un posto in squadra. Assolutamente, uno deve avere i migliori tecnici, il miglior ambiente, la migliore organizzazione, perché per esperienza dico che non, per caso si perde ma non si vince. Lo dimostra sia nel basket, che è una grande organizzazione, ha vinto 4 scudetti, lo dimostra la Virtus, che siamo l'unica squadra che ha vinto 2 Euroleague, però quello che dico che è molto importante, sì, il protezionismo può solo distruggere un'azienda, non la può aiutare, deve essere un mercato competitivo aperto, se poi sono i migliori quelli italiani, bene, se no rimarranno a guardare. Io ritengo che invece sia fondamentale per creare delle persone e non solo atleti. Certo, è vero anche che viviamo in un paese dove a 26 anni sei ancora un giovane giocatore, nel calcio come nel basket come in tutti gli altri sport, dove magari a 45 in qualunque settore sei un giovane professionista iscritto alle liste in sala d'attesa, insomma, questo è vero, però non deve diventare un alibi per i lazzaroni. Infatti, quindi assolutamente, come dicevo prima, se uno finisce l'attività agonistica a 35-36 anni deve avere quelle basi, per l'amor del cielo, non pensiamo che uno si laurei in 3 anni con 110 lode, perché sappiamo benissimo qual è l'impegno a livello agonistico, sì, certo. Ma innanzitutto frequentare anche ambienti che non sono solo quelli dello sport, e altrettanto dico prepararsi a un post carriera, che lo ritengo fondamentale, quindi la Virtus non solo come scuola di basket ma scuola di vita. In un periodo in cui si disinveste sul settore giovanile, o si è ricominciato lentamente a investire in alcune aree, però in un periodo in cui il settore giovanile esce dalla crisi più cupa, complice la legge Bosman e molte altre cose, chi glielo fa fare di investire? So benissimo che la Virtus da anni invece investe sul settore giovanile, ma chi glielo fa fare? Ma io credo, guarda, come tutti gli uomini di sport, lo facciamo perché c'è una grande passione. Ovviamente la passione dovrebbe anche andare in parallelo con il business, perché ritengo un club o un'impresa difficile, ma un'impresa per ora è solo passione, il settore giovanile. È solo passione. E assolutamente, sì, perché i tifosi qui per primi vogliono vedere il risultato, lo vogliono vedere subito. Sì. Raccontare che adesso investiamo il 20% del nostro budget per giocatori che fra 7 anni saranno forse dei campioni, si fa fatica. Sì, la Virtus di quest'anno come sarà, per chiudere? Molto giovane. Tanto per cambiare. Molto giovane, speriamo affamata, credo che giocheremo un basket simpatico, abbiamo abbassato di molto l'età della squadra, anche gli altri giocatori di altre nazionalità, che siano lituani, che siano finlandesi, hanno mediamente 22-23 anni, quindi sicuramente speriamo non solo una Virtus ma anche una futura Virtus. Ma anche? Una Futur Virtus. Una Futur Virtus è obbligatorio, e io spero prima o poi anche una Futur Fortitudo, perché a Bologna senza quegli altri non si può stare, nel basket italiano senza quegli altri non si può stare, insomma. Sì, assolutamente, è una città dove siamo abituati al derby, in questo momento c'è una situazione abbastanza tipica, purtroppo molto prevedibile, dove non si è fatto nulla. Cosa si possa fare, lo dico da amante di questo sport, come ben sapete. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E mi raccomando, libretti scolastici in mano, se no non giocano. Sicuramente, buona giornata. Grazie Claudio Sabatini, Presidente della Virtus Bologna. Caro Daniele da Treviso, non è che Sabatini ci deve insegnare a vivere sempre quello del dovevamo perdere a Roma. Sabatini ha fatto un sacco di cose, ha avuto un sacco di uscite, molte delle quali anche ampiamente discutibili, e l'abbiamo sottolineato nel corso degli anni. Questa idea e questo tipo di uscita, secondo me, è invece da sottolineare in rosso, perché non è che si deve identificare per forza un personaggio in totalmente in positivo, totalmente in negativo. È uno spunto, è semplicemente uno spunto, magari anche per parlare di giovani, per chiarire un po' di cose, no? Perché io mi sono un po' stufato di tutta la demagogia che vedo sui giornali. Anno zero, bisogna ripartire dai giovani. Discorsi anche, dicevo prima, vagamente antipatici. Chiudiamo i settori giovanili a quelli che vengono da fuori. Secondo me nello sport professionistico, per giocare, per arrivare ad alto livello, bisogna meritarselo e bisogna competere anche con nel 2010 con ragazzi che arrivano da altri paesi. Questo è il discorso, secondo me. C'è chi scrive: un giorno in procura anche in asilo, e a Quinta sta sempre male, è un immaturo stile basket. Non saprei perché immaturo stile questo stile basket, Mauro da Torino, io non lo capisco, se vuole me lo spiega. Iaquinta stamane sta fermo un mese, si è fatto male in nazionale, hanno scoperto ora questo infortunio muscolare che lo terrà di nuovo fuori, più fuori che in campo Iaquinta in realtà nelle ultime stagioni. Paolo da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Avevo telefonato inizialmente per un discorso di ciclismo, però poi le chiederò di esprimere anche un paio di discorsi sul basket, visto gli argomenti del signor Sabatini. Partiamo dal ciclismo. Personalmente io credo che se al mio avversario cade la catena, io chiedo a qualche spettatore della tappa addirittura di danneggiarlo per darmi più tempo ancora di andare avanti, paradossalmente. Sì. Non capisco questo discorso di aspettarlo. Sì, però sennò... Paolo, lei ha ragione, può far parte dello sport anche fare i furbi in questo modo. Io non guardi, per paradosso non arrivo a criticare l'atteggiamento furbesco di Contador. Mi ha dato però più fastidio il fatto che aveva detto non me ne sono accorto. Se lui invece fa un discorso come quello che lei sta facendo, nello sport io voglio vincere, se l'avversario va giù la catena io parto e me ne infischio, così mi sta bene, perché si va così fino in fondo e si è coerenti fino in fondo. Non si dice non me ne sono accorto e il giorno dopo ho sbagliato, perché questo invece non mi piace tanto. Sono d'accordo, anche perché sennò a questo punto corrono tutti con le stesse biciclette, tutti con lo stesso preparatore, e allora non c'è più neanche il discorso della squadra, del mezzo tecnico e quant'altro. Se devono essere pari, allora bisogna parificarli in uno stile Formula Indy dove corrono tutti con gli stessi strumenti. Sì. E quando uno buca si fermano tutti. Sì. Fa parte dello sport l'incidente, fa parte dello sport anche l'approfittare di questa cosa. Ripeto, non è una figura elegante, però se si sceglie questa via la si percorre fino in fondo, se uno è uno sportivo di livello, come Contador, senza nascondersi dietro alle bugie. Poi? Sono perfettamente d'accordo. Poi sul discorso basket, primo, sì, sono completamente allineato con la sua posizione, nel senso che il protezionismo non porta da nessuna parte, perché se i cavalli sono polsi. No, ma guardi, il mio discorso comunque non è legato soltanto al basket, è ampiamente trasferibile anche al calcio e a tutti gli altri sport. Verissimo, anche perché ripeto, se il cavallo non ha la potenza non si arriva da nessuna parte, anche perché forse io vedo nel basket, perché sono più appassionato di basket che di calcio, che noi andiamo ad ondate con le leve di qualsiasi sport. Sì. Nel basket abbiamo avuto delle grosse infornate di bravissimi giocatori, penso a Gentile, agli Esposito, che è vero che hanno esordito perché magari qualche allenatore gli ha dato fiducia, sì, però età molto, però erano forti, erano forti, altro che uno che aveva Gentile ed Esposito non andava a prendersi gli americani nello stesso ruolo, se li sceglieva in altri spot e andava con gli italiani, ma ripeto, stiamo parlando di tanti anni fa ormai, con Gentile ed Esposito che è gente che ormai supera i 40, no? Quindi fate i conti voi. Nando Gentile ha esordito in Serie A a 16 ed era già protagonista. La mia sensazione è che non ci siano in giro poi molti giovani talenti con quella voglia di emergere, semplicemente quello, non solo nel basket ma anche nel calcio, nel ciclismo, in tutti gli altri sport. Siamo sicuri che insomma i nostri ragazzi abbiano veramente voglia di, non solo i numeri tecnici, atletici, abbiano veramente voglia di fare gli sportivi professionisti? Se la risposta è sì, allora lo dimostrino, non pretendendo un posto in squadra o facendoselo assegnare per legge o per regolamento, ma provando a bagnare il naso agli altri. Tiziano, Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per questa possibilità. Le ruberò pochi secondi per una riflessione. Perché proprio ieri, seguendo la tappa del tour, ho sentito la signora De Stefani che telecronizzava la trasmissione. Per sottolineare l'aspetto umano di questo sport, ieri erano 15 anni che il signor Casaltelli era morto nel suo Tour de France. Sì. E poi durante la tappa ho visto questo incidente che è occorso a Schleck, nel quale Schleck ha perso la catena. Che amarezza pensare che solo pochi anni fa, 4 o 5, in una stessa salita del Tour, Ulrich subì lo stesso incidente e Armstrong, che era al passo di lui e che su quella tappa si giocava al Tour de France, sì, l'ha aspettato come un gran signore e dopo, sì, ha ripreso la sfida. Sì. la riflessione amara è questa. Che gusto c'è a prendersi 35 secondi di vantaggio sull'incidente di un avversario? Nessuno, guardi, Tiziano, nessuno, la sua riflessione è corretta, però da questo punto di vista siamo sempre in questo ambito iperprofessionale professionistico. Se Contador dice il mio obiettivo è vincere il tour, se a quello cade la catena io lo attacco, non ci fa una gran figura certamente, non ci fa una gran figura certamente, come facilmente intuibile. Però la cosa più fastidiosa ancora è che dica non me ne sono accorto, perché questa è una balla, come d'altra parte dimostrato dalle scuse dello stesso Contador di oggi, che ripeto non hanno fatto altro che allargare la macchia sulla maglietta, no? In questo tentativo di lavarla via. Se uno intende la professione in questa maniera, faccia pure, però se ne assuma la piena responsabilità, insomma, la piena responsabilità del suo comportamento sportivo, antisportivo, fate voi, insomma, non è questo il punto. Andrea, provincia di Livorno, poi Yehudi da Bergamo, e poi vi faccio sentire anche Totti, che oggi è tornato a parlare in maniera molto divertente, anche un po' contraddittoria, solita polemica ormai a distanza, anche un po' stucchevole con la Lega. Non parlo con quelli che non cantano l'inno italiano, non voglio gli oriondi in nazionale. E poi a domanda, ma la nazionale come l'hai vista? Ma l'ho vista poco perché ero in viaggio, insomma. Un po' contraddittorio anche in questo frangente, Francesco Totti, ma poi lo sentiamo. Andrea. Andrea da Livorno. No. Yehudi da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Primo appunto, se l'Inter applicasse la regola della pagella, mi sa che Balotelli starebbe il terzo anello. Sì. Tanto Balotelli non sta al terzo anello, ma sta per volare in Inghilterra. Questo glielo do per certo. Ho capito. Riguardo al ciclismo, senza difendere Contador, ma che differenza c'è tra quello che ha fatto lui e per esempio una squadra di calcio che vince grazie a un'autorete, o una gara di motociclismo in cui un avversario fora e quindi l'altro va a vincere? Sì, indipendentemente da poi quello che abbia detto lui Contador, come guardi, l'autorete è parte del gioco, no? L'incidente meccanico nel motociclismo è, se uno rompe il motore, o nella Formula 1 è parte del gioco. In questo caso è un po' diversa la situazione. C'è stato un incidente meccanico del principale avversario mentre erano lì impegnati sulla salita, e questo ha fatto lo gnorri ed è partito e si è preso la maglia gialla. Quindi il discorso è questo: pienamente legittimato a farlo dallo sport, pienamente legittimato a farlo, poi però se ne assuma le conseguenze. Insomma, non trovo un gran parallelo tra l'autorete, il motore che si rompe nella gara motoristica, e questo banale incidente meccanico che, insomma, alla fine ha permesso a Contador di guadagnare un pugno di secondi. Non credo che per quel pugno di secondi Contador vincerà il tour, certamente per quel pugno di secondi ha un po' sporcato la sua immagine, questo è indubbio. Oggi niente chef, caro Gilberto, niente chef. Ieri abbiamo sentito Davide Oldani, tifoso interista, ma soprattutto grande genio della cucina. Ma Totti sa anche parlare, Paolo da Castelfranco Veneto. Sì, sa parlare, spesso dice cose anche piuttosto interessanti. Sentiamo che cosa ha detto oggi. Ha parlato di un sacco di argomenti, al di là della Lega, di chi canta l'inno, chi non lo canta, eccetera. Ha parlato anche di moviola in campo, Francesco Totti. Ma io ho sempre detto che dovrebbero mettere le telecamere in campo, però nello stesso momento penso che se dovessero mettere le telecamere in campo sarebbe un altro campionato. Apposta non le metto, perché sennò sarebbe tutto più semplice. Poi la domenica sera non parlano, non dicono cazzate, non dicono... almeno ci hanno da lavorare. Sì, almeno c'hanno da lavorare, dice Francesco Totti. Vabbè, passiamo oltre. Totti sugli oriundi? Non sono favorevole, perché l'Italia è... sono Italia italiana. Quella è la squadra cui voglio vedere. Non è come la Germania, che c'è un polacco, un tedesco. Cioè, c'è il giocatore di fuoco. Camoranesi? Vabbè, capito. Vabbè, la voglio vedere. No, per dire, ormai vanno tutti. No, vabbè, però io italiano spero che non lo faccia. Ci siano più italiani. Cioè, essendo italiano, vedi la scuola italiana. Sì, io non la guardo nemmeno. Parto tutte le settimane. Dunque, avete capito, no? Mi sembra puro cabaret, insomma, non mi sembra il caso di starci tanto a discutere. Voglio vedere la scuola italiana, però tanto non la vedo perché tanto ero in viaggio, quindi non fatemi domande sull'Italia dei mondiali. Prendiamola così com'è, prendiamolo così com'è Francesco Totti. 800 24 00 24 è il numero verde. Stavo leggendo dei messaggi, alcuni dei quali interessanti, c'era uno di Marcello, ma adesso non lo trovo, quindi lo cerco con calma e poi eccolo qui. Il problema è che non ci sono più tanti giovani disposti a fare fatica perché circondati da modelli di successo a fatica zero, scrive il nostro ascoltatore, ed è condivisibile, almeno dal mio punto di vista. Ecco che torniamo, 800 24 00 24, numero verde. Totti ha detto una cosa sacrosanta, questo tra i vari messaggi, non tutti simpaticissimi per la verità, ha detto una cosa sacrosanta, senza polemiche su Moviola e arbitri, tre quarti dei sedicenti giornalisti che parlano di calcio in TV non saprebbero cosa dire, oppure tecnologia in campo e subito i giornalisti vecchi come te, Garanzini, in pensione, largo ai giovani anche nel vostro settore. Beh, insomma, io sono abbastanza vecchio, ma non così tanto. Però la moviola in campo non mi piace, non la voglio vedere, cosa volete farci? Va bene per i sensori, va bene capire quando il pallone supera la linea, lì ci sto, ma non oltre, perché se si comincia a sindacare la discrezionalità dell'arbitro non mi piace più, non mi diverto più, mi diverto invece sempre ad ascoltare Francesco Totti, condivisibile o meno, io mi diverto, non so voi. Saluti e ringrazio invece Marco Ansaldi, inviato della Stampa, oggi al giorno di primo giorno di scuola del Milan. Ciao Marco. Ciao. Com'è il clima lì? È abbastanza effervescente, nel senso che ci sono stati, diciamo così, ci sono state le prime contestazioni a Berlusconi, o comunque a chi si pensa potesse essere Berlusconi su quell'elicottero che non abbiamo più visto, ma probabilmente atterrato da qualche parte qui a Sordo Milanello. E quando hanno visto l'elicottero, identificando Berlusconi, molta gente ha fischiato, adesso ci sono degli ultras che stanno intonando il coro un presidente, vogliamo un presidente, quindi un presidente qualsiasi, immagino, sì. Non quello che c'è attualmente. E ci sono degli striscioni giganteschi contro la testa del tifoso, ma questo ormai sì. È una ipotesi che c'è in tutte le città. Però devo dire che, ricordandomi, perché purtroppo non sono Garanzini avanti con gli anni, lo sono anch'io, ricordandomi il primo raduno berlusconiano, mi sembra che il clima sia estremamente diverso e molto meno favorevole, sì, alla squadra proprietaria di quanto non fosse allora. Sì, come sottolineavi nel tuo pezzo di oggi, si è passati dalla cavalcata delle Valchirie di 24 anni fa a forse al varietà, no? Bambole non c'è una lira. Sì, o comunque a una visione molto più ridotta del calcio, che non sarebbe per carità un danno, da un certo punto di vista, se non fosse che il Milan nel frattempo ha sperperato milioni in contratti incredibilmente alti a della gente incredibilmente avviata sulla strada della bollitura, penso. Sì. Adesso, io mi stupisco quando sento parlare di 10 milioni che il Galaxy di Los Angeles offrirebbe di ingaggio a Ronaldinho, ma se penso che il Milan più o meno fanno la legge ne paga 8, sì, sì. Insomma, mi chiedo perché e così via su contratti rinnovati a Gida, quando secondo me dovesse quasi lui a pagare, più uno solo, lo stesso contratto rinnovato recentemente a Inzaghi, che ormai sono tutti giocatori che hanno dato tantissimo al calcio, perché bisognava avere il coraggio di dire ragazzi scusate tanto, ma adesso la nostra politica è un'altra. Il Milan ha sempre voluto, secondo me, e anche questo è un dato distintivo in assoluto, non negativo, anzi sarebbe anche positivo in un calcio diverso, quello del senso dell'appartenenza, quasi della riconoscenza nei confronti di chi ha fatto molto per la storia di questa società, sì. Però le cose non funzionano così, cioè poi a un certo punto se tu paghi 3 milioni di euro all'anno a Salazzo, poi non riesci a comprare, o meglio ancora, per costruire e far crescere all'interno della sua società dei calci giovani e migliori. No, naturalmente il Milan sta pagando comunque, sta pagando una politica che è stata così per anni e non si può all'improvviso invertire questa politica con contratti ancora in corso, eccetera, eccetera. Dunque l'errore sta a monte. Marco, purtroppo la conversazione è piuttosto disturbata, quindi ti... Si sente veramente male, però si sentivano in compenso i cori di sottofondo che tu citavi prima. Grazie Marco, buon lavoro. Anche a voi, ciao. Grazie davvero a Marco Ansaldo. Comunicazione purtroppo non perfetta, si è andato avanti a discutere ancora un po', aggiungendo ad esempio il fatto che, come dicevo ieri, scatenando le ire di molti, ma insomma, cosa ci volete fare, sono qui anche per dire quello che penso, non solo per raccontare quello che succede. La miglior notizia per il Milan sarebbe la partenza di Ronaldinho, perché sarebbe il primo passo proprio per cominciare a smantellare il Museo delle Cere, magari prendere dei giocatori ancora vivi agonisticamente, cosa che non è più, ho l'impressione, temo Ronaldinho, che avrà sempre quei piedi meravigliosi, che è sempre bellissimo esteticamente da vedere giocare, non come ragazzo, soprattutto adesso che è inciccionito, però non si discute il fatto che sia stato uno straordinario giocatore, non si discute il fatto che sia uno spettacolo vederlo con un pallone in mezzo ai piedi. Io discuto dello status di Ronaldinho come fuoriclasse assoluto a 8 milioni di euro netti a stagione. Francesco Mantova, poi Maurizio da Modena. Francesco da Mantova, no, non è giornata neanche per i telefoni. Maurizio da Modena invece magari sì. Ce la facciamo? Ce la facciamo, proviamo. Senta, lei si salva solo perché è giovane? Garanzini lo vogliono buttare, ho capito. No, un ascoltatore che dice che vuole mandare in pensione chi non vuole la Moviola in campo, ma mi mandino pure in pensione. Tanto anche dalla pensione la Moviola non la voglio. Se vogliono buttarmi o baby pensionarmi, facciano pure, ma tanto non cambio idea, no? Perché la Moviola non mi piace, perché non mi piacerà mai, insomma, quindi mi tengo questa mia convinzione. Blatter ha di nuovo fatto marcia indietro dopo i giorni caldi in cui aveva detto sia la tecnologia, adesso subito alla prossima riunione, al prossimo board della FIFA. Invece no, fa marcia indietro, si parla di giudici di linea, giudici di fondo campo, ma di tecnologia no. Io ripeto, se vogliamo usare la tecnologia sulla linea di porta, a me va benissimo, anzi sarebbe anche ora nel 2010. Se vogliamo metterci a discutere se un fallo in area era rigore oppure no, a me non piace, semplicemente quello. Poi vogliono farlo, lo faccio, tanto io non conto nulla. Dica Maurizio. Io sono ancora più integralista forse, perché mi sa che la linea di porta sia un problema, ma poi quanti altri dentro possiamo trovare? Quanti altri? Quanti altri problemi possono esserci? Linea di fondo, fallo laterale, sì. area del portiere, ingresso dei difensori quando si tira un rigore, non lo so, mettiamo tanti occhi di falco? No, ma sa, se insomma la questione geometrica, no? Se il pallone ha superato o no una linea, tutto sommato si può anche dirimere con la tecnologia, non ci trovo niente di scandaloso in questo. Non mi piace invece, che non mi piacerebbe vedere assegnato un calcio di rigore alla Moviola, questo no di sicuro. Certo. Chiedo scusa, parliamo di Totti, era quello per cui... Sì, a che proposito di Totti? Lei dice teniamocelo com'è. E quale io sono Totti? D'accordo. Uno, due, ecco. O tre o quattro, cinque? Quale Totti? Quello che dice in campo. Ma anche quello fuori a me non dispiace, perché, perché insomma io non riesco a prendere queste cose così sul serio come molti di voi, no? Quindi a me non dispiace nemmeno quello fuori dal campo, anche se ogni tanto si contraddice da solo, come oggi quando ha fatto questo pistolotto sulla romanità o sull'italianità, eccetera eccetera, poi dice ma le palle della nazionale in fondo non le vedo perché tanto sono in giro, quindi... Cioè, infatti io penso che le cose che ha detto oggi assomigliavano non a un'intervista ma a uno spot. Sì. Il personaggio è identico a quello dello spot. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, è vero, è identico a quello dello spot, tanto che si fatica ormai a distinguere tra, tra spot e conferenza stampa seria. Per quello che dico che io non riesco poi a, a prenderlo così maledettamente sul serio come fanno molti, anche sta storia di Balotelli. Ho già detto, ho pensato di ritirarmi dopo aver dato quel calcione a Balotelli, però non abbiamo, credo, questa dichiarazione. Ve la racconto così a spanne a parole, poi la leggerete, la sentirete. Però Balotelli aveva offeso la romanità, ma per quanto possa offendere la romanità o chi vuoi tu, quello è stato un gesto da, da uno che, come spesso è capitato a Totti, perde il lume della ragione. Questo è stato il peggiore difetto di Totti nel corso della, della sua intera carriera, perché ha sempre avuto questa tendenza a comportamenti coatti, soprattutto molto più in campo che fuori, devo dire. Alberto, buonasera, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare una riflessione sulla Juventus che mi veniva anche dall'intervento prima dal ritiro del Milan, cioè dal fatto che oggigiorno ci sono delle realtà che ormai non sono più in grado di spendere, i tifosi scontenti eccetera. Allora io sulla Juventus sono molto più fiducioso come tifoso juventino nel medio-lungo periodo, per cui sono fiducioso, perché l'operazione del nuovo stadio, perché l'investimento sui giovani, la primavera che vince sempre, o almeno vince sempre, sta dando delle dimostrazioni di essere guidata bene, darà sicuramente le soddisfazioni. Ecco, nel breve periodo volevo una sua riflessione, mentre credo che si sia mossa anche bene, persone sicuramente competenti, ma rotta sul mercato. Quello che tutti dicono però, nonostante tutto, l'attacco è il punto forte alla Juve, ecco invece quello mi preoccupa, e credo che è l'aspetto da tifoso, ripeto, non che vuole vincere tutto subito, perché sarà un percorso che ci darà soddisfazioni, sì, però che vuole, anno. Però da tifoso credo che vuole cominciare a camminare nella giusta direzione dopo che si è perso molto tempo. Questo figlio ha 10 anni, lo voglio legittimo. Portare nello stadio nuovo, voglio esatto. improntarlo a un calcio un po' diverso da quello degli ultimi anni, a una passione un po' diversa, a divertirsi. Ecco, poi tornando all'aspetto invece squisitamente tecnico, ecco, sono un po' preoccupato per il reparto d'attacco, perché alla fine io ho purtroppo avuto una delusione, credo che Amauri sia un giocatore molto limitato, Iaquinta è tornato infortunio, se non sbaglio, fuori un mese. Io credo che lì il solito capitano, con tutta la sua grinta, la determinazione, la voglia di giocare, che può sembrare anche arrogante, ma è frutto di un della professionalità, sì, anche però, del carisma. Ha ragione Alberto, però non andiamo d'accordo fin qui su tutto, non andiamo su Del Piero, perché temo che potremmo entrare in disaccordo. Secondo me Del Piero sarebbe ora che insomma, magari accettasse un altro ruolo anche all'interno della Juventus, non necessariamente in campo, insomma, perché credo che sia ormai diventato un po' scomodo per la ricostruzione della Juventus. Questo penso su quel grande campione che è stato Alessandro Del Piero. Quanto al resto fa bene, condivido le sue preoccupazioni sull'attacco attuale della Juventus, però si è sempre detto che qualcun altro arriverà, non so se questo erbavoglio di Dzeko o qualcun altro, però non credo che questa, almeno a sentir loro, sia la Juventus definitiva, quella che affronterà il campionato. Quanto al resto, ha ragione su tutto il resto, insomma, condivido tutto il suo percorso. Vuole vedere una squadra crescere, voglio vedere una Juventus pronta ad essere competitiva magari in uno stadio nuovo. Dicevo ieri, mi piacerebbe vedere in Italia finalmente l'Inter vende Balotelli, probabilmente per fare cazzo, per altri motivi, non lo so, però sta vendendo Balotelli, cosa che accadrà tra oggi, domani, dopodomani, ma accadrà. Ecco, mi piacerebbe vedere finalmente un club italiano che dice vendo Balotelli, Maicon, Milito, eccetera, eccetera, non necessariamente l'Inter, vendo un paio di giocatori per fare cassa, sì, ma per costruirmi uno stadio nuovo, non per andare a prendere degli altri. Questo non l'ho ancora visto. Marco da Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, vorrei fare una premessa, perché se non è facile farvi capire il senso e il significato di questa premessa. Diciamo che nel nostro dialetto si può coniare una frase che può dare un significato: la politica e l'upallò fa diventare bugiardi le persone. Non so se è riuscito a capire. Sì, ho capito. Allora, quello che grandi specialisti della carta stampata, opinionisti o comunque qualsiasi tifoso è capace di dire adesso, magari fra domani o fra un mese non lo dice più e rinnega tutto. Cioè, questo per dire che stiamo facendo una campagna denigratoria sul Milan quando il Milan comunque non credo che al Milan i Galliani, i Braidano siano gli ultimi arrivati nel contesto sportivo e calcistico. A Galliani, al Milan o comunque a Berlusconi. Senta, deve Marco, dare... sono d'accordo, il Milan secondo lei può vincere lo scudetto e la Coppa dei Campioni? Sì, beh, io voglio dire no, sì o no? Il Milan no, probabilmente allora. No. Però il processo a ritroso di costi di gestione del Milan vengono dall'ultima vittoria della Coppa dei Campioni, cioè perché rinnovare dopo aver vinto nel 97 la Champions League, ovviamente sì. I Pirlo, i Gattuso si presentano alle casse e chiedono un rinnovo contrattuale di entità economica diversa. Sì, è ovvio sempre... che la società... No, non è ovvio, si può sempre dire di no se si decide di cambiare strategia. Ad esempio il portiere di riserva del Milan guadagnava 4 milioni l'anno, cioè Nelson Dida, contratto rinnovato alla vigilia della finale di Champions League poi vinta, e che è stato molto pesante per l'intera gestione. Ad esempio andare a prendere Ronaldinho a reduce da stagioni problematiche a Barcellona a 8 milioni netti a stagione, mi sembrano tanti soldi, e poi se ci sono stati tanti contratti, come si ricordava prima, anche di giocatori non fenomenali, citava Marco Ansaldo Calazze, tanti contratti sono stati di recente rinnovati per molti e molti soldi, dunque sono contratti che sono ancora in essere, che pesano tanto e che servono a poco, secondo me. Io adesso però vorrei, poi riprendo a parlare con gli ascoltatori, però sul Milan il punto è molto semplice. Allora, questa squadra è competitiva in Italia e in Europa? Secondo me la risposta è no. Quello che trovo abbastanza fastidioso è che invece questa risposta nel palazzo rossonero vogliono venderla come un sì. Il Milan non è competitivo ad alto livello, è una squadra che costa moltissimo. Questo è il discorso, molto semplice. Voglio parlare però di altro, e voglio parlare di un altro contratto che non riguarda il calcio, ma che è già stato scritto. Sport e motori. Quest'estate ogni giorno parleremo di motori, che sia Moto Mondiale o Formula 1, perché è l'argomento dell'estate. Saluto e ringrazio una delle voci più note e competenti del Moto Mondiale, come Nico Ceraghini. Ciao Nico, grazie. Ciao a te, ciao a tutti. Ciao. Contratto già stato scritto, adesso è ormai un segreto di Pulcinella e si attende l'annuncio, però Rossi alla Ducati credo che sia il chiudere un circolo intorno al mondo del Moto Mondiale, no? Sì, davvero. Sì, ormai è certamente definito in tutti i suoi dettagli, anche se si aspetta per diverse ragioni di comunicarlo ufficialmente a dopo Brno, quindi a metà agosto. Valentino in Ducati, che cosa significa per te, Nico? Per me questo... apre un mondo, cioè io credo che, al di là del fatto che questa volta Valentino trova una moto già vincente, mentre quando passò a Yamaha nel 2004 la moto era molto indietro, però rappresenta tantissimo sul piano emotivo, naturalmente l'orgoglio nazionale, la rossa col pilota italiano, un tuffo nella storia, Agostini, l'MV, gli allori nazionali, insomma è tutto molto bello, ma secondo me porterà ancora di più di quello che gli stessi protagonisti adesso immaginano, perché la Ducati fa delle grandi moto anche per la strada, eccetera. Certo. Però ha una filosofia ballerina, un buon modello alternato a un modello così così. Io credo che l'influenza di Rossi arriverà perfino lì, ma non perché lui metterà il sedere sulla moto da strada, ma perché i tecnici scopriranno un nuovo modo di fare le moto attraverso Valentino. Arrivo fino a là, vedremo delle Ducati più belle anche per strada. È stato così un po' in Yamaha? Yamaha no, non è stato così. Diciamo che Yamaha il discorso è stato diverso. Yamaha pagava uno scotto proprio di immagine tecnica, Honda faceva le moto che vincevano e Yamaha invece arrancava, magari con molta originalità, però perdeva il confronto. Invece Valentino ha reso vincente anche la tecnologia Yamaha. Poi però purtroppo il mercato non sempre premia questa caratteristica, perché tanti sono gli elementi che giocano dopo, anche la gamma a disposizione del mercato, le crisi, le gestioni finanziarie, quindi non si può dire che ha avuto la stessa influenza. Sì, intanto però questo passaggio di Valentino Rossi Yamaha secondo me per il grande pubblico italiano toglierà un senso di colpa strisciante, latente di fondo, no? Tifo Valentino, però la Ducati è la moto italiana. Io, sai, ho avuto diversi confronti con ascoltatori che dicono: ma come fai a incensare così Valentino Rossi? C'è invece la moto italiana e bisognerebbe tifare per quella, a parte che ognuno tifa per quello che gli pare, no? Grosso modo. Certo, però toglie questo senso di colpa di fondo. Anche, certo, unisci i tifosi dell'uno e i tifosi dell'altro. Scontenta qualcuno, perché tra i ducatisti, che sono spesso, vedono rosso proprio sempre come i tori, spesso Valentino è stato visto come il nemico, adesso si fa un po' fatica a vederlo amico, no? Sì. Naturalmente qualcuno dice che venderà la Ducati se Valentino faccerà la Ducati, però sono pochi che cambieranno idea, secondo me. Questo mondiale è finito per te? No, non è finito, perché Valentino a meno 111 con 10 gare da fare, può vincerne tante, però è difficile che arrivi al titolo. Però invece Pedrosa è ancora in gioco, Lorenzo non si sentirà così tranquillo, e quindi insomma tante cose possono ancora accadere, e secondo me già da Laguna Seca avremo delle belle sorprese, gare più combattute, più equilibrate. Intanto dal punto di vista dei risultati televisivi, cosa che ti vede direttamente coinvolto, questi 5 milioni e mezzo sono un botto clamoroso, che dice un po' di, che racconta un po' di cose anche sull'impatto che ha, comunque Rossi. Cioè, sì, io penso che il motociclismo, per quanto meriterebbe 20 milioni di telespettatori ogni domenica, però se devo essere realista, ho sempre pensato che il motociclismo, anche ben fatto, anche ben commentato, però più di 3 milioni non, in realtà non valga, 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Mm. È Valentino il fattore moltiplicante, è lui, è soltanto lui, ma è logico, perché allarga lo spettacolo anche alle casalinghe, alle signore anziane, ai bambini, a tutti, proprio a tutti, anche non soltanto agli appassionati. Che domenica sera saranno tutti lì a vedere la corsa Laguna Seca. Su Canale 5 poi, sì. Quindi è ancora più interessante. Cavatappi ce la fa finalmente Lorenzo a vincere su quella pista che non... Sì, direi che Pedrosa mi sembra più in palla anche lì. Però anche Stoner, anche Lorenzo, perfino Valentino, insomma, secondo me lì ne vediamo delle belle davvero. Sì. Un'ultima cosa, Nico, l'ultima cosa che mi ha sorpreso è stato vedere Rossi in sella dopo quattro settimane dall'incidente. Insomma, avevamo già fatto pronostici con Mario Poltronieri. Gli ho detto: come riesce a infilare il piede nello stivale? Valentino Rossi sale sulla moto e corre. Questo, insomma, la dice lunga anche sulla voglia che ha Rossi di continuare a guidare le moto senza farsi distrarre da mille altre sirene che non mi piacciono neanche un po'. Infatti, cioè anche a me, io non mi ha sorpreso, nel senso che conosco il tipo di lesione, so i tempi per un motociclista, che poi non è che deve correrci su questa gamba, cioè non deve saltarci sopra, quindi però mi ha sorpreso, comunque mi ha confortato vederlo ancora con la stessa grinta, la stessa convinzione, e sicuramente avrà fatto piacere anche la Ducati, perché subito qualcuno si è spinto a dire: chissà se tornerà a correre, e se lo farà chissà se avrà ancora la stessa voglia. E io non ho mai dubitato di questo, però insomma la conferma è stata grandiosa fin dalla prima uscita, e questo forse non tutti se l'aspettavano così forte, così clamoroso. Grazie Nico, buon lavoro. Anche a voi, un abbraccio. Buon pomeriggio. Grazie, ciao, grazie Nico Cereghini. Dunque aspettiamo domenica, sarà una gara particolarmente importante anche per gli equilibri del motomondiale. Perché secondo me Lorenzo ha praticamente il mondiale in pugno, Valentino Rossi è tagliato fuori dai giochi e tutto il resto è insomma vaga demagogia, perché è chiaro che basta guardare la classifica, Valentino Rossi è tagliato fuori dai giochi, però può essere forse proprio per questo può essere l'elemento di maggior divertimento in questo finale di stagione. Dopo Brno, quindi il 16 di agosto, verrà annunciato il suo passaggio ormai ufficiale alla Ducati. Poteva essere annunciato anche prima, mentre la Ducati, leggevo, con un atto di gentilezza nei confronti della Yamaha, ha deciso di posticipare il tutto per non andare a danneggiare l'immagine della Yamaha su mercati come ad esempio quello statunitense, in cui il personaggio Valentino Rossi in sella quella moto ha ancora un peso specifico. In cambio, Valentino Rossi probabilmente potrà cominciare a provare una moto nuova il giorno dopo la conclusione di questo mondiale, il giorno dopo quindi la corsa di Valencia. Così lo stato dell'arte. Adesso chiudiamo, mentre io sto dando un'occhiata alle agenzie che riportano appunto quanto sta succedendo a Milanello. Nulla di di clamoroso o di epocale. Ci sono 2000 tifosi al raduno del Milan, viene contestata la società, in particolare viene contestato Berlusconi che è stato fischiato, Berlusconi è arrivato in elicottero, insomma cose di questo tipo. Avremo modo per tornarci nei prossimi giorni. Vi do l'appuntamento a domani dalle 2 alle 3 del pomeriggio. Io ringrazio Flavio Suardi per il lavoro in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani.